Crepuscolo. È tempo. Un gigantesco stendardo triangolare nero, largo 3 metri ed alto 2, con al centro lo stemma dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, apre la solenne processione del Venerdì Santo di Chieti, città abruzzese di 63.000 abitanti. Marco, nel suo lungo cappottino nero e abbarbicato sulle spalle del nonno, già si vede membro dell'arciconfraternita e freme al passaggio degli incappucciati in tunica nera e mozzetta dorata, mentre pesantemente trasportano i trofei, le statue lignee della passione di Cristo e... Pazzele, nonno! Questi è la scala, quelle che hanno usato per la crocifissione, vi dà un po'? Sì, però parla piano. È sempre la stessa processione, non serve che me lo ricordi. E questo invece è l'usazza! Il trono, la corona di spine e gli dadi. Li vidi, li dadi, nonna, se lui occhi. Quando è brutto su maledetti occhi, tu non la ti fa mai. Nonno, ho 12 anni, non è che posso giocare d'azzardo, non mi date nemmeno la paghetta. Questo invece è la croce! Guarda la croce, quando è grossa e maledetta, tutto di legno. Che la serpe tutta accrociata, là in volo, lo diavolo. E lui esce la dama. Che da Pucci su Cristo la fatta di lì. No, non basta, sempre la stessa processione. Non è che cambia. Dai, fammi scendere, per favore. Oh. Marco sa bene, però, che quell'anno è diverso da tutti gli altri. Per la sicurezza della popolazione, la solenne processione ha infatti deviato il suo millenario percorso a Croce Latina. Le strette viuzze fatte di saliscendi del centro cittadino sono state chiuse e la marcia funebre è stata costretta a passare per la Civitella. Il punto più alto ed antico di Chieti, che si affaccia su una vallata appena illuminata dalle fioche luci tremolanti dei paesi vicini. In coda alla processione, i 300 musici e cantori si avvicinano nel loro abito nero, la camicia rigorosamente bianca, papillon e guanti in seta nera, cappello circolare di velluto e lo stemma, la spilla dorata, appena illuminata dai grossi tripodi di bronzo che delimitano la strada. La processione arresta la sua marcia. Tutto si fa ancora più silenzioso, in attesa del canto. Città abruzzese della costa, le estati sono tutte uguali, le partite a pallone, nascondino, a chiapparello, questo a loro basta. Paolo adesso è un silvarolo, un abitante di Silvi, ed è strano per un montanaro divenire improvvisamente uomo di mare. Paolo nota questa scomodità negli occhi di Rocco e Piera, i suoi genitori, e nel silenzio che c'è a tavola. Ma che importa? Quest'anno le vacanze iniziano in anticipo all'Hotel Provence! Silvia e Marina, la gigantesca scritta bianca incastonata nella siepe perimetrale in cima all'edificio, posta verticalmente lungo la facciata principale, troneggia imperiosa con le sue 4 stelle. Un hotel enorme, alto 10 piani, bianco e con tanti balconcini azzurri che si affacciano sul mare. Un sogno. Nella hall dell'albergo, una gigantesca stanza rettangolare vuota, ci sono ancora degli oggetti indefiniti imballati nel cellophane, tra cui quel grande pianoforte nero a coda. In fila, più di 30 famiglie aquilane attendono di essere smistate nelle rispettive camere. Non si parla. Al massimo si getta un'occhiata a quella persona, quel conoscente. Sono tutti lì. Finalmente è il turno della famiglia di Paolo. La fortuna è decisamente dalla loro. Decimo piano, tripla vista mare. E gli ascensori sono tutti bloccati. Quindi piega per le scale con tutto l'entusiasmo e l'energia che solo un dodicenne può avere nel voler vedere la camera, la sua nuova casa. 1008, 1010, 1012. La stanza non è un granché. Immediatamente a destra dell'ingresso il bar, doccia, lavandino e dici. Dopo un lunghissimo corridoio la stanza si allarga in uno stretto rettangolo con il letto matrimoniale ed il lettino singolo appoggiati alla parete di destra. A sinistra una piccola scrivania, telefono ed un altrettanto piccolo schermo LCD. Davanti pesanti tende damascate, dietro il mare. Il mare, quest'anno le vacanze iniziano in anticipo. Il mattino seguente Paolo in auto con Rocco e Pierre alla volta dell'Aquila. Sull'autostrada A24 la Ford Mondeo nera di Rocco disegna dietro di sé una candida scia di polvere che diverte Paolo e lascia sbigottiti gli automobilisti che li vedono dalla corsia opposta. Rocco sa bene il perché di quegli sguardi. Sei terremotato solo quando ti accorgi che gli altri non lo sono. 15 maggio 2009. Silvi, L'Aquila, L'Aquila, Silvi, Silvi, L'Aquila, L'Aquila, Silvi, Silvi, L'Aquila, L'Aquila, Silvi, Silvi, L'Aquila, L'Aquila, Silvi, Silvi, L'Aquila, L'Aquila, Silvi, Silvi, L'Aquila, L'Aquila, Silvi, Silvi, L'Aquila, L'Aquila, Silvi, e basta! Rocco ormai è stremato, non ne può più, tutta la sua vita è diventata un perpetuo viaggio in direzione della sua città, L'Aquila, e della sua casa, classificata come B, edificio temporaneamente inagibile. La certificazione di agibilità suddivide gli edifici aquilani in 6 categorie, dalla A, agibile, alla F, inagibile. B, temporaneamente inagibile. Praticamente c'è solo qualche crepa sul muro. Ma loro, non vogliono avere altri morti sulla coscienza. Per fortuna anche la giornata di oggi volge al termine e dal pensiero di un vero letto e di una bella dormita Rocco sorride. Paolo! Paolo! Paolo, un uomo enorme sulla cinquantina, occhi nero pece, vestito completamente di bianco con un orrido gusto nella scelta nei mocassini arancio evidenziatore, chi è che busciasce? Questa è la mia camera. Chi si... Uset, questa è la mia camera. Votre chambre, non, c'est la nôtre de chambre. On est arrivé cet après-midi, on a réservé. La réception nous a donné la clé pour la triple avec lui sur la mer. Ah, mais c'est de l'Aquila. On a vu à la télé ce qui s'est passé. Je suis désolé. Casqué, bouquet, Rocco non ha orecchie per sentire gli occhi per guardare il francese e scende a due le scale dell'hotel fino ad arrivare alla reception. Dov'è mio figlio? Dove mia moglie? Dove la mia roba? Cosa diavolo succede qui? Signor? Solfanelli, Rocco. Un attimo solo. Signor Solfanelli, abbiamo provveduto a spostare la vostra roba al 7° piano, stanza 765, poiché vede, tutto il 10° era stato da tempo prenotato da una comitiva di francesi. Sa, siamo entrati in piena stagione balneare e non possiamo rischiare di perdere la prenotazione, altrimenti chiuderemmo. Ma non faccia quella faccia, signor Solfanelli. Lei almeno ha ancora la fortuna di essere qui con noi. Sì, fortuna, perché vede... Sta male, in maniera del tutto arbitraria e casuale, abbiamo bussato alle porte del 10° piano e tutti gli aquilani che ci hanno risposto sono stati cordialmente invitati a lasciare l'edificio ed andare altrove. Restiamo comunque a vostra completa disposizione. 10 giugno 2009. Sono ormai passati 2 mesi dal terremoto e Paolo... è stufo. Sì, è stufo perché... ormai la famiglia lo lascia sempre da solo, visto che in quel perpetuo viaggio si dilatra la Brasile, si dilatra la Brasile. Il mare. Il mare, la spiaggia, non sono proprio come se li ricordava, soprattutto se visti dalla finestra del quinto piano. Stanza 543. Hello! The reception told us to tell you that this is our room. We've booked in the 21 mark and we had brunch and lunch with porch and brunch and... Prego, non ascolta, così come non vengono ascoltate le sue proteste. Non possiamo rischiare di perdere le prenotazioni. Siamo costernati, ma restiamo comunque a vostra completa disposizione. Effettivamente la stagione balneare è ormai alle porte e al posto della distesa di sabbia fine adesso ci sono file interminabili di ombrelloni, lettini e sedie a sdraio celesti. Così, mentre da una parte Silvia apre la Silvia, Silvia apre la Silvia, dall'altra, se non altro, c'è chi può godersi finalmente un po' di spiaggia. Il lacchè dell'albergo vestito di nero e con la scucchia non permette di far nulla. E allora via verso la piscina! Cuffia, occhialini, si sale sul trampolino e... Che pure qua! Guarda tu faccio! Poi vedi come sto sudando, ci stanno guardando e... Vabbè. Quest'anno le vacanze per Paolo sono iniziate in anticipo, è vero. Ma il mare non è decisamente come se lo aspettava. Ma cos'è? E André-toi. La sala da pranzo dell'Hotel Provence tintinna una sinfonia di posate accompagnata dallo splendido pianoforte a coda. Dai, chérie, per tre quarti. Chérie. I tre quarti destinati ai clienti dell'hotel. No, perché a loro la colazione è stata servita in piatti posati in bicchieri in plastica e il ripinto separato in legno che divide le due parti permette in tal modo ai clienti paganti di potersi godere le loro meritate vacanze senza i pensieri negativi degli aquilani. Rocco distingue chiaramente il lato sonoro da quello silente. Camera 101, primo piano, due giorni prima. Indiani. 47 famiglie da Bollywood. È solo il primo piano dell'intero hotel a disposizione degli aquilani. Dalle finestre del primo piano il mare non si vede. E l'aria è irrespirabile. Soprattutto nelle ore più calde a causa dei fumi che provengono dalle cucine sottostanti. Per fortuna che c'è l'aria condizionata. Papà, vado io! Pronto! Papà! Pronto? Signor Solfanelli! L'aria condizionata, la piscina, la spiaggia e tutti i servizi da noi offerti sono da ritenersi riservati ai clienti del... E noi non siamo clienti. Ovviamente no, signor Solfanelli. Lei e la sua famiglia è ospite dell'hotel, non cliente. Vede, per poter usufruire dei servizi da noi offerti è necessario che lei paghi un ticket in reception. Sì, signor Solfanelli, pagare, perché, vede, la convenzione che abbiamo stipulato con la protezione civile prevede esclusivamente pernottamento, pranzo, cena e prima colazione. Tutto il resto, signor Solfanelli, è da considerarsi un extra. Restiamo comunque a vostra completa disposizione. Arrivederci. Paolo porge al padre quel piccolo souvenir che gli aveva regalato qualche tempo prima. è l'Aquila, perfettamente definita in ogni stradina, in ogni chiesa. C'è persino la fontana delle 99 cannelle. E la vede lì, chiusa in una teca di vetro, sigillata e affogata in un liquido che sembra tenerla come in ibernazione. Un gesto e un torbellino di corpuscoli bianchi circonda tutta la città, imbiancandola, prima di tornare pian piano ad adagiarsi su di essa, abbracciandola. Rocco vede e capisce. Capisce che il loro posto è altrove. Sguardi in alto, in basso, per terra e in cielo, riconoscenti e colpevoli di essere ancora lì. Shh, non dobbiamo fare rumore, Paolo. Secondo quella gente, noi non stiamo facendo la cosa giusta e non dobbiamo farci vedere. Andiamo. Corso Vittorio Emanuele. Quanti pomeriggi in Massa di Azzunzo. Guarda quella via, la riconosci? Quella è Via Verde. Guarda quanti negozi con le saracinesche abbassate e niente dentro, eh? Hai visto gli sciacalli? Il teatro comunale. La scuola elementare di Amicis. Con vaste cicatrici sui loro volti. Avanti, andiamo per via Giovanni da Capistrano. Guarda, guarda com'è bianco per terra. Hai visto? Pare la neve, eh? Hai visto? Andiamo, dai. Basilica di San Bernardino, forte nella sua facciata, come un genitore si mostra al figlio dopo un funerale, diraniato dentro. Avanti, andiamo per via da Fortebraccio. Paolo, siamo nella zona rossa, non ci dobbiamo far vedere. Se ci scoprono ci arrestano, eh? Ecco, vedi, lì c'è una pattuglia, Paolo. Avanti, andiamo di là, per via Spine. Dai, stai basso, via Celestino Quinto, dai che ci siamo quasi, eh? Via Lerendina, dai. La villa comunale. Che silenzio assordante. La riconosci quella strada? Paolo, la riconosci? Quello è il nostro viale. Viale Francesco Crispi. E lì c'era un palazzo.